Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione. Oggi seconda puntata della nostra serie estiva che dedichiamo interamente ai giovani ingegneri italiani all'estero. Lo sapete che, secondo Alma Laurea, il 29% dei nostri neolaureati espatriati sono ingegneri? Se ne vanno dunque i costruttori di futuro? Affrontiamo il tema su scala europea. Partiamo dalla Danimarca con la storia di Antonino Pizzuto, 34enne ingegnere meccanico ad Aarhus. Lo abbiamo incontrato a novembre. Nome: Antonino. Cognome: Pizzuto. Età: quasi 35. Città di origine: qualcosa a metà tra Catania e Messina. Studi: ingegneria meccanica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? In Danimarca. Perché? Per me, per mia moglie, per mia figlia, per non aver rimpianti. Quale lavoro svolge attualmente? Project manager presso Vestas Wind System. Dove? Ad Aarhus, la seconda città della Danimarca. Tornerai? Ora come ora mi sembra molto improbabile. La band danese degli Aqua, Good Morning Sunshine, buongiorno sole, potremmo tradurre qualcosa che Antonino probabilmente ora declama con gioia risvegliandosi, ma non nella sua Sicilia, piuttosto in Danimarca, profondo nord europeo. Non è così, Antonino, e metaforicamente è un buongiorno diverso quello danese, no? Sì, direi proprio di sì, anche se non climaticamente parlando, perché oggi abbiamo neve e molto freddo, ma è sempre un buongiorno quando ti svegli in un paese con questo, diciamo, livello e con questa qualità di vita e di lavoro. Antonino, prima di raccontare la tua storia vorrei partire con una frase che tu hai scritto a giovanitalenti@radio24.it. Ci hai scritto: io credo che vada sottolineata la silenziosa fuga di professionisti validi e normali che sta avvenendo ogni giorno di più, gente che letteralmente manda avanti le aziende, produce reddito, paga le tasse, al di là del cliché consumato della fuga dei cervelli che identifica quasi unicamente il fenomeno dei ricercatori. Pensi che esista un paese giovane, fatto di giovani validi e normali, che sta fuggendo dall'Italia? Credo proprio di sì. Se consideri, nella mia azienda siamo passati da 1 a 5 italiani in 6 mesi e in giro per Aarhus ne vedo sempre di più. Penso che molti miei conoscenti ormai vivono all'estero e sono tutti ragazzi praticamente normali, spinti da spirito di avventura, ma credo principalmente da un'insofferenza ormai radicata verso il sistema Italia. Gente che ha studiato in Italia e poi finisce per creare reddito in un altro paese. Un fenomeno in crescita, attenzione. Iniziamo con la tua storia. Siciliano doc, cresce a cavallo tra Messina e Catania. Proprio a Catania ti iscrivi a ingegneria, laureandoti col massimo dei voti. Quale giudizio dai ora a quella esperienza universitaria? Sinceramente positiva. La ritengo forse un po' troppo teorica, meno pratica rispetto a università straniera, ma anche altre università italiane. Ma in generale credo che mi abbiano formato molto bene, se considerate che ho lavorato per anni con gente di mezzo mondo. Come si dice, non mi sono mai preso da bere da nessuno. Trovi lavoro praticamente subito in una grande azienda metalmeccanica a Torino, per cui ti trasferisci a lavorare al nord. Come vieni selezionato per quel posto? In modo meritocratico, con un processo di selezione reale? Il processo di selezione è stato estremamente professionale. Ho fatto 3 colloqui, test attitudinali, assessment, un colloquio finale col futuro capo, tutto, diciamo, in grande stile. Ogni risposta è arrivata dopo ogni colloquio dopo circa 2-3 settimane e credo che sia stato fatto tutto in modo molto meritocratico. Com'è stato l'impatto con Torino? Seppur interna, per te, dopo tutto, si è sempre trattato di emigrazione, senza la valigia di cartone ma con la laurea in tasca e per di più nella città simbolo dell'emigrazione al nord. L'impatto è stato splendido. Sinceramente ho amato Torino dal primo minuto, è una stupenda città e spesso secondo me è stata sottovalutata. Come hai detto tu, comunque non sono arrivato con la valigia di cartone come per esempio mio padre nei tardi anni 60. Diciamo pure che la diffidenza verso l'immigrato ultimamente si è spostato da noi terroni a extracomunitari vari, quindi non credo di aver avuto particolari problemi. Certo, all'inizio la tua terra ti manca, ma sta tutto a te, alla tua capacità di cogliere opportunità. A Torino ti sposi, hai una figlia, ma con gli anni qualcosa cambia. Tua moglie, ricercatrice a progetto all'università, viene letteralmente accompagnata alla porta non appena resta incinta, alla faccia, diciamolo pure, delle pari opportunità. E tu cominci a soffrire un ambiente di lavoro pervaso da una strana asimmetria tra output produttivo e riconoscimenti aziendali. Raccontaci meglio. Anni ho fatto quello che credo si possa definire una ottima carriera, con conseguenti riconoscimenti a livello salariale quasi annuali. Poi ad un certo punto solo le responsabilità hanno continuato a crescere, insieme alle ore di lavoro ordinario e straordinario sempre più pretese. I riconoscimenti, quelli a voce, non sono mai mancati. E poi, guarda, riguardo a mia moglie, la solita vecchia storia dei ricercatori a progetto, nessuna tutela, nessun diritto, hanno un sacco di passione e per 4 lire si spaccano letteralmente la schiena. Poi appena per qualsiasi ragione non servi più ti dicono addio. Il paese che investe sui giovani. A un certo punto scrivi tu a giovanitalenti@radio24.it: nella mia azienda le carriere sembravano decise dall'amicizia piuttosto che dal valore. Allora, Antonino, è un paese di mediocri al potere questo, dove nel piccolo dell'azienda si rispecchia la classe dirigente della nazione, dove non basta essere bravi e di valore, l'importante è sapersi vendere, sapersi intortare, diciamo pure, le persone giuste, dove alla fine non contano i risultati ma le chiacchiere, ed è per questo, ti chiedo, che stiamo declinando? Temo che sia uno dei motivi più importanti. Ho visto più volte intorno a me delle carriere evolvere in modo quantomeno sospetto, diciamo. Il problema è che credo che noi italiani siamo molto più bravi a costruire delle relazioni che dei progetti, e alla fine tendiamo con naturalezza a dare una certa importanza alle prime. All'estero, diciamo, non esiste che tu per far carriera debba sia importante giocare a calcetto con il capo. E poi lasciami dire, è vero quando dicono che siamo vecchi. Nella mia azienda in Italia trovare un manager sotto i 45-50 anni era un'impresa, e se i capi hanno 60 anni è naturale che ci sia un certo immobilismo. Va bene esperienza, va bene tutto, ma se muovi un top manager da un ruolo all'altro, tutto si muove in modo quasi gattopardesco. E come devo spiegare a un sessantenne il concetto di challenging the boss? Attenzione alle relazioni e non ai risultati. A mio parere questo è uno dei problemi maggiori che abbiamo in Italia. La nascita di tua figlia fa scattare la molla, il desiderio di fare un'esperienza all'estero si trasforma in necessità. Mi mettono i brividi quasi le parole che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it. Cosa potevamo offrirle? Che scuola se non potevamo permettercene una privata? Che opportunità se non eravamo ricchi in un paese dove tutto ormai sembra in vendita? Antonino, una democrazia dovrebbe offrire uguali opportunità di partenza a tutti i suoi figli. È ancora una società, tra virgolette, democratica la nostra? No, per me non più. L'Italia ha smesso da anni di essere un paese realmente democratico. Guarda, da quando il figlio di un impiegato, quale io sono per esempio, non ha più le stesse opportunità e speranze del figlio di un ricco, per me la democrazia è finita lì. Onestamente non mi faccio illusioni, sapevo che la vita di una persona povera era difficile anche una volta, ma almeno aveva speranze, poteva studiare, poteva sognare un futuro migliore. Oggi è difficile anche solo pensare di mandare un figlio a scuola. Pensa all'università. E poi le università italiane ormai sono fuori da ogni classifica, non le considerano praticamente più all'estero. Sinceramente non è questione di far soldi, secondo me. Io non sono interessato a far soldi. Quello che mi interessa è quel concetto che gli americani definiscono la ricerca della felicità. Io vorrei che mia figlia potesse scegliere nella vita cosa fare, con tante possibilità aperte davanti, come ce le hanno i tedeschi, i francesi, i danesi. E onestamente, qui la faccio io una domanda, credi che sia possibile oggi in Italia? Agli ascoltatori la risposta, scriveteci. giovanitalenti@radio24.it. Tu a quel punto cominci a guardarti intorno, invii vari curriculum e ti arriva l'offerta giusta dalla Danimarca. È interessante capire quale azienda te la fa e ce lo spiegherai, ma soprattutto raccontaci il processo selettivo. L'azienda è la Vestas Wind System, che ad oggi è la più grande azienda al mondo nella produzione e progettazione di turbine eoliche, quindi Green Technology. Devo dire che la selezione è stata semplice e lineare. Un primo colloquio telefonico, seguito poi da un incontro presso la sede del Technology R&D ad Aarhus. Tutto è stato molto informale, qui si usa molto essere informali senza tanti fronzoli. Devo dire, quello che mi ha colpito di più è stata la disponibilità. Hanno sprecato un sacco di ore a fornirmi informazioni, dettagli, sono stati trasparenti e onestissimi in tutto, dai termini del contratto, senza giri di parole, senza cercare, come si dice, di indorare la pillola. Questo l'ho realmente apprezzato. Da circa un semestre lavoro in Danimarca e siete, parole vostre, contentissimi di una scelta che ci fa guardare al futuro con più fiducia. Tempo di bilancio allora, Antonino, che tu ami dividere in 4 macro categorie. Dobbiamo essere molto rapidi però. Partiamo dalla prima, lo stipendio. Che dire, appena esci dall'Italia praticamente raddoppia. Meritocrazia e valorizzazione professionale. 6 mesi forse sono pochi per un bilancio. Comunque ti posso dire che ho iniziato come technical lead engineer. Dopo 2 mesi mi hanno promosso a project manager. Forse hanno pensato che valessi qualcosa. Sistema sociale. Qui parliamo di un altro mondo. Le tasse sono alte, ma hai praticamente tutto gratis. E autostrade, ospedali, strade, scuole, università, tutte. Se vuoi ti posso mandare le foto dell'asilo pubblico di mia figlia. Bilancio, lavoro, vita privata. Questa è stata decisamente la sorpresa più bella. Ho scoperto che in Italia lavoriamo come i muli e per 4 soldi. Qui invece lavorano tutti a testa bassa dalle 8 alle 4, ma alle 4 e mezza scompaiono tutti, capi compresi. E questo veramente mi ha fatto rinascere. Ho molte più ore per me, per mia figlia, e sinceramente non riesco a calcolare il valore di questo. Antonino, domanda a diritto. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Guarda, bella domanda. Direi che in questo momento